Penso che tutti noi avremo delle reminiscenze scolastiche anche dei primi anni della nostra vita, quando ci è capitato di studiare le civiltà precedenti alla nostra, dalla Assiro-Babilonese a quella egiziana e poi arrivando a quella romana e così via. Certamente ricorderemo che parlando dell'Egitto si sarà detto che adoravano alcuni animali, il gatto sacro, adoravano il coccodrillo, il bue sacro, api, adoravano anche Iside e Osiride, il cielo, il sole e la luna. E a noi sarà capitato di sorridere. Sole e la luna, vabbè, ancora, ma adorare il bue sacro, coccodrillo, il gatto sacro, ci sarà senz'altro venuto un po' da sorridere. E abbiamo fatto bene, perché la nostra religione è un'altra. All'inizio della Bibbia noi troviamo scritto una parola fondamentale: Dio crea tutta la terra, gli animali. Solamente dell'uomo si dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Io vorrei fermarmi un istante all'inizio di questa settimana santa proprio su questa parola: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, perché questo è il prototipo dell'uomo, Gesù. Non a caso Pilato lo presenta alla folla per fargli scegliere tra Barabba e Gesù e dice: Ecce homo, ecco l'uomo. Cari amici, abbiamo bisogno per la sanità mentale e umana nostra in questa settimana santa di soffermarci a guardare bene in faccia: ecco l'uomo, l'uomo della croce. Perché l'uomo si è smarrito oggi. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, non facciamo i cani, i gatti, i cavalli, che trattiamo con tutta una linea nutrizionale che al supermercato occupa degli scaffali. C'è gente che muore di fame e c'è il problema del sovrappeso dei nostri animali domestici. Ci sono ancora oggi nel mondo persone che vanno a frugare nella spazzatura e ci sono nostri animali così coccolati che hanno diritto al medico veterinario. Sono creature di Dio. Già, ma l'uomo è fatto a immagine di Dio. Io credo che stiamo perdendo il ben dell'intelletto e stiamo sbagliando obiettivo, perché non guardiamo più Ecce Homo. Allora io vi suggerisco, cari amici, in questa settimana di fare il possibile e ancora di più del possibile per stare concentrati sull'uomo, Dio, Gesù. Vi invito a cercare in questa settimana con decisione. Non abbiate paura, amici, di fare alcuni sforzi per andare a messa tutti i giorni, anche chi va al lavoro. Io ho conosciuto gente che andando al lavoro da Milano a Pavia ha scoperto che deviando dalla statale di 3 chilometri si entrava in un paesino dove riusciva giusto andare a messa. Se io parto 20 minuti prima da casa, tra l'altro trovo anche meno traffico, mi fermo a messa e poi vado al lavoro. Un ingegnere, un uomo della produzione, un uomo di Ecce Homo. Andiamo a messa tutti i giorni, cari amici, almeno nella settimana santa. Sapete com'è chiamata nel rito ambrosiano? Ebdomada, settimana autentica, la settimana autentica, quella vera. Vi invito in questa settimana a fare tutto il possibile, augurandomi che in casa nostra entri qualche cosa di stampato, di ispirazione cattolica, per andare a cercare dove si parla o della sindone, o dove si parla di usanze in tutta Italia e anche in Europa, di sacre rappresentazioni. Ci sono paesi interi che si muovono per preparare delle sacre rappresentazioni in cui loro sono coinvolti, attirando un sacco anche di gente che vanno solamente per filmare folklore. Va bene, va tutto bene, ma quei paesani lì che entrano dentro nella loro parte, è commovente vedere che recitano la passione di Cristo. Da parte nostra, cari cristiani, cerchiamo di fare il possibile, andando a scovare anche sui mezzi di comunicazione, sia quelli pubblici, sia quelli che possiamo trovare sul nostro cellulare, delle realtà religiose. Ecco l'uomo che noi dobbiamo tenere sott'occhio, che noi dobbiamo guardare. E scopriremo che veramente l'uomo, noi, siamo fatti a sua immagine e somiglianza. Io vi leggo qualche passaggio di una pagina in cui si parla 700 anni prima di Gesù. Il profeta Isaia parla del servo di Yahweh, il servo di Dio, e dice: non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. È disprezzato, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci copriamo la faccia per non vederlo. Come è vero, amici? Quante volte di fronte a certe immagini del mondo dove l'uomo è trattato peggio che le bestie, tu dici: ma Signore, ma perché l'uomo ammazzato dai suoi simili? Perché bambini annegati nel mare? Perché bambini usati come cavie? Perché? Perché l'uomo trattato così? Siamo smarriti. Allora dovremmo saper guardare ancora il crocifisso, trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Amici, io vi auguro che possiamo fermarci in questa settimana a guardare Gesù, guardare l'umanità e guardare noi stessi e comprendere che cos'è il male, cos'è il peccato, che cos'è l'uomo e come può essere violato, violentato, abbrutito dal suo simile, ecce homo. Abbiamo bisogno di fermarci a guardare Gesù. E allora, quando ci capiterà di sentire, a me è capitato, che parenti nostri, amici intimi nostri, sono stati abbrutiti dal Covid. Oh, Don Ambrogio, mio marito, hanno dovuto mettergli il pallone. Che pena pensare cosa capitava a questo mio marito, che poi ce l'ha fatta. e quanti ce l'han fatta e quanti non ce l'han fatta, ecce homo, ecco l'uomo. E non metterci a bestemmiare come qualcuno ha fatto contro Dio per questo che succede, come se fosse colpa di Dio, ma essere capaci, come tantissima gente ha fatto di tutti i tipi, di curare quest'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. Insomma, amici, vi auguro questa settimana di diventare riflessivi. Accendiamo la televisione, ma solo se c'è qualche cosa che ci fa fissare lo sguardo su Ecce Homo. È una settimana unica questa durante l'anno. Possiamo utilizzarla bene per diventare più uomini, più pensierosi, più maturi. Potremo lasciarla scorrere via come le altre settimane e trovarci a Pasqua a dirci delle parole. Buona Pasqua, buona Pasqua, buone feste, auguri. Parole, parole, parole, amici.